I 10 comandamenti rivelati nei dettagli tramite la mistica Maria Valtorta. Da L'Evangelo come mi è stato rivelato, volume secondo, edizione CEV. Primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo. Non ti farai degli dèi nel mio cospetto, è detto, non ti farai degli dèi nel mio cospetto. Non ti farai nessuna scultura, né rappresentazione di quello che è lassù nel cielo, o qua giù in terra o nelle acque sotto la terra. Non adorerai tali cose, né presterai loro culto. Io sono il Signore Dio tuo, forte e geloso, che visito l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano, e faccio misericordia fino alla millesima di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. La voce di Gesù rimbomba nello stanzone pieno di folla, perché piove e tutti sono rifugiati in esso. In prima linea quattro sofferenti, ossia un cieco condotto da una donna, un bambino tutto crostoso, una donna gialla per itterizia o per malaria, e uno portato su una barellina. Gesù parla appoggiato alla greppia vuota. Giovanni e i due cugini, insieme a Matteo e Filippo, sono presso a lui, mentre Giuda con Pietro, Bartolommeo, Giacomo e Andrea sono sull'uscio e regolano l'entrata di quelli che ancora arrivano, mentre Tommaso con Simone girano fra la gente facendo tacere i bambini, raccogliendo gli oboli, ascoltando richieste. Non ti farai degli dèi nel mio cospetto. Avete udito come Dio sia onnipresente col suo sguardo e la sua voce. In verità sempre siamo al suo cospetto. Chiusi nell'interno di una camera o fra il pubblico del tempio, ugualmente siamo al suo cospetto. Benefattori nascosti che anche al beneficato celiamo il nostro volto o assassini che assaliamo il viandante in una gola solitaria e lo trucidiamo, ugualmente siamo al suo cospetto. Al suo cospetto è il re in mezzo alla sua corte, il soldato sul campo di battaglia, il levita nell'interno del tempio, il saggio curvo sui libri, il contadino sul solco, il mercante al suo banco, la madre curva sulla cuna, la sposa nella camera nuziale, la vergine nel segreto della paterna dimora, il bimbo che studia nella scuola, il vecchio che si stende per morire. Tutti al suo cospetto e tutte le azioni dell'uomo ugualmente al suo cospetto. Tutte le azioni dell'uomo. Tremenda parola. E consonante parola. Tremenda sue azioni di peccato, consolante sue azioni di santità. Sapere che Dio vede. Freno al mal fare. Conforto al ben fare. Dio vede che bene agisco. Io so che Egli non dimentica ciò che vede. Io credo che Egli premia le buone azioni. Perciò sono certo di avere di queste premio, e su questa certezza mi riposo. Essa mi darà serena vita e placida morte, perché in vita e in morte sarà la mia anima consolata dal raggio stellare dell'amicizia di Dio. Così ragiona colui che agisce bene. Ma colui che agisce male, perché non pensa che fra le azioni proibite sono i culti idolatrici? Perché costui non dice, Dio vede che, mentre fingo culto santo, adoro un Dio o degli dèi bugiardi, ai quali ho eretto un altare segreto agli uomini ma noto a Dio? Quali dèi, direte, se neppure nel tempio è figura di Dio? Quale volto hanno questi dèi, se al vero Dio ci fu impossibile dare un volto? Sì. Impossibile dare un volto, perché il perfetto e il purissimo non può essere degnamente raffigurato dall'uomo. Solo lo spirito intravede la sua incorporea e sublime bellezza e ne ode la voce, ne gusta la carezza quando egli si affonde presso un suo santo meritevole di questi contatti divini. Ma l'occhio, l'udito, la mano dell'uomo non possono vedere e udire, e perciò ripetere con il suono sulla cetra, col mazzuolo e lo scalpello sul marmo, ciò che è il Signore. Oh, felicità senza fine quando, o spiriti dei giusti, vedrete il Dio. Il primo sguardo sarà l'aurora della beatitudine che nei secoli e dei secoli vi sarà compagna. Eppure ciò che non potemmo fare per il vero Dio, ecco che l'uomo fa per gli dei bugiardi. Ed uno erige l'altare alla donna, l'altro all'oro, l'altro al potere, l'altro alla scienza, l'altro ai trionfi militari. L'uno adora l'uomo potente, suo simile in natura, solo superiore in prepotenza o fortuna. L'altro adora se stesso e dice, non c'è altri pari a me. Ecco gli dèi di coloro che sono del popolo di Dio. Non stupitevi dei pagani che adorano animali, rettili ed astri. Quanti rettili! Quanti animali! Quanti astri spenti adorate nei vostri cuori! Le labbra pronunziano parole di menzogna per adulare, per possedere, per corrompere. E non sono queste le preghiere degli idolatri segreti? I cuori covano pensieri di vendetta, di mercimonio, di prostituzione. E non sono questi i culti agli dei immondi del piacere, dell'avidità, del male? È detto, non adorerai nulla di ciò che non è il tuo Dio vero, unico, eterno. È detto, io sono il Dio forte e geloso forte, nessuna altra forza è più forza della sua. L'uomo è libero di fare, Satana è libero di tentare. Ma quando Dio dice, basta, l'uomo non può più male agire e Satana non può più tentare. Respinto questo nel suo inferno, abbattuto quello dal suo abuso nel malfare, perché vi è un limite ad esso, oltre il quale Dio non permette si vada. Geloso. Di che? Di quale gelosia? La meschina gelosia dei piccoli uomini? No. La santa gelosia di Dio sui suoi figli. La giusta gelosia. L'amorosa gelosia. Vi ha creati. Vi ama. Vi vuole. Sa ciò che vi nuoce. Conosce ciò che è atto a separarvi da lui. Ed è geloso di questo che si intromette fra il padre ed i figli e li svia dall'unico amore che è salute e pace, Dio. Comprendete questa sublime gelosia che non è gretta, che non è crudele, che non è carceriera. Ma che è amore infinito, che è infinita bontà, che è libertà senza limiti, che si dà alla creatura finita per aspirarla nell'eternità a sé in sé e farla compartecipe della sua infinità. Un padre buono non vuole godere le sue ricchezze da solo. Ma vuole che i figli con lui le godano. In fondo, più per i figli che per sé le ha accumulate. Ugualmente Dio. Ma portando in questo amore e desiderio la perfezione che è in ogni sua azione. Non deludete il Signore. Egli promette castigo sui colpevoli e sui figli dei figli colpevoli. E Dio non mente mai nelle sue promesse. Ma non abbattete l'animo vostro, o figli dell'uomo e di Dio. Udite, ed esultate, l'altra promessa, e faccio misericordia fino alla millesima di quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Fino alla millesima generazione dei buoni. E fino alla millesima debolezza dei poveri figli dell'uomo, i quali cadono non per malizia ma per sventatezza e per tranello di Satana. Più ancora. Io vi dico che egli vi apre le braccia, se col cuore contrito e col volto lavato dal pianto voi dite, Padre, io ho peccato. Lo so. Me ne umilio e a te mi confesso. Perdonami. Il tuo perdono sarà la mia forza per tornare a vivere la vera vita. Non temete. Prima che voi peccaste per debolezza egli sapeva che avreste peccato. Ma solo il suo cuore si chiude quando persistete nel peccato volendo peccare, facendo di un dato peccato o di molti peccati i vostri dei d'orrore. Abbattete ogni idolo, fate posto al Dio vero. Egli scender con la sua gloria a consacrare il vostro cuore quando si vedrà lui solo in voi. Rendete a Dio la sua dimora. Non nei templi di pietra, ma nel cuore degli uomini essa è. Lavatene la soglia, liberate l'interno da ogni inutile o colpevole apparato. Dio solo. Solo Lui. Tutto è Lui. E per nulla è inferiore al paradiso il cuore di un uomo in cui sia Dio, il cuore di un uomo che canti il suo amore all'ospite divino. Fate di ogni cuore un cielo. Iniziate la coabitazione con l'Eccelso. Nel vostro eterno domani essa si perfezionerà in potenza e gioia. Ma qui sarà già tale da superare il tremebondo stupore di Abramo, Giacobbe e Mosè. Perché non sarà più l'incontro folgorante e spaurente col potente, ma la permanenza con il padre e l'amico che scende per dire, la mia gioia è stare fra gli uomini. Tu mi fai felice. Grazie, figlio. Secondo comandamento, non nominare il nome di Dio invano. È detto, non proferire invano il mio nome. Quando è che lo si nomina invano? Solo quando lo si bestemmia? No. Anche quando lo si nomina senza rendersi degni di Dio. Può dire un figlio, amo il padre e l'onoro se poi, a tutto quello che il padre da lui desidera, oppone opera contraria? Non è dicendo, padre, padre che si ama il genitore. Non è dicendo, Dio, Dio che si ama il Signore. In Israele in cui, come ieri l'altro ho spiegato, vi sono tanti idoli nel segreto dei cuori, vi è anche una ipocrita lode a Dio, lode alla quale non corrispondono le opere dei lodatori. In Israele vi è anche una tendenza, quella di trovare tanti peccati nelle cose esteriori, e a non volerli trovare, là dove realmente sono, nelle cose interiori. In Israele vi è anche una stolta superbia, un'antiumana e antispirituale abitudine, quella di giudicare bestemmia il nome del nostro Dio su labbra pagane, e si giunge a proibire ai gentili di accostarsi al Dio vero perché si giudica ciò sacrilegio. Questo fino ad ora. Ora non più. Il Dio d'Israele è lo stesso Dio che ha creato tutti gli uomini. Perché impedire che i creati sentano l'attrazione del loro creatore? Credete voi che i pagani non sentano qualcosa nel fondo del cuore, qualcosa di insoddisfatto che grida, che si agita, che cerca? Chi? Che? Il Dio ignoto. E credete voi che se un pagano tende se stesso all'altare del Dio ignoto, a quell'altare incorporeo che è l'anima in cui sempre è un ricordo del suo creatore, è l'anima che attende di essere posseduta dalla gloria di Dio, così come lo fu il tabernacolo eretto da Mosè secondo l'ordine avuto, e che piange finché questo possesso non la tiene, Dio respinga il suo offrirsi come si respinge una profanazione? E credete voi che sia peccato quell'atto, suscitato da un onesto desiderio dell'anima che svegliata da appelli celesti dice, vengo al Dio che le dice, vieni, mentre sia santità il corrotto culto di un d'Israele che offre al Tempio quanto avanza dal suo godimento, ed entra al cospetto di Dio e lo nomina, questo purissimo, con anima e corpo che è tutta una verminaia di colpe? No. In verità vi dico che la perfezione del sacrilegio è in quell'israelita che con anima impura pronuncia invano il nome di Dio. È pronunciarlo invano quando, estolti non siete, quando per lo stato dell'anima vostra sapete che inutilmente lo pronunciate. Oh, che io vedo il volto sdegnato di Dio che si volge con disgusto altrove quando un ipocrita lo chiama, quando lo nomina un impenitente. E ne ho terrore, io che pure non merito quel corruccio divino. Leggo in più di un cuore questo pensiero, ma allora, fuorché i pargoli, nessuno potrà chiamare Dio, perché dovunque nell'uomo è impurità e peccato. No. Non dite così. È dai peccatori che quel nome va invocato. È da coloro che si sentono strozzati da Satana e che vogliono liberarsi dal peccato e dal seduttore. Vogliono. Ecco ciò che muta il sacrilegio in rito. Volere guarire. Chiamare il potente per essere perdonati e per essere guariti. Invocarlo per mettere in fuga il seduttore. È detto nella Genesi che il serpente tentò Eva nell'ora in cui il Signore non passeggiava nell'Eden. Se Dio fosse stato nell'Eden, Satana non avrebbe potuto esservi. Se Eva avesse invocato Dio, Satana sarebbe fuggito. Abbiate sempre nel cuore questo pensiero. E con sincerità chiamate il Signore. Quel nome è salvezza. Molti di voi vogliono scendere a purificarsi. Ma purificatevi il cuore, incessantemente, scrivendovi sopra con l'amore la parola, Dio. Non bugiarde preghiere. Non consuetudinarie pratiche. Ma col cuore, col pensiero, con gli atti, con tutto voi stessi dite quel nome, Dio. Ditelo per non essere soli. Ditelo per essere sostenuti. Ditelo per essere perdonati. Comprendete il significato della parola del Dio del Sinai. Invano è quando dire Dio non è mutazione in bene. Ed è peccato allora. Invano non è quando, come il battito di sangue nel cuore, ogni minuto del vostro giorno e ogni vostra onesta azione, bisogno, tentazione, dolore, vi riporta sulle labbra la filiale parola d'amore, vieni, Dio mio. Allora, in verità, non peccate nominando il nome santo di Dio. Andate. La pace sia con voi. Terzo comandamento. Ricordati di santificare le feste. Santifica la festa. Guarigione di un bambino dalle gambe fratturate. Punto. La giornata meno tremenda, per quanto ancora piovosa, permette alla gente di venire dal Maestro. Gesù ascolta in disparte due o tre che hanno grandi cose da dirgli e che poi raggiungono più quieti il loro posto. Benedice anche un bambinello che ha le gambine fratturate malamente che nessun medico volle curare dicendo, è inutile. Sono rotte in alto, presso la spina. Lo dice la madre tutta in lacrime, e spiega, correva con la sorellina sulla via del paese. È venuto avanti di galoppo col suo carro un erodiano e lo ha travolto sotto il carro. Ho creduto fosse morto. Ma è peggio. Lo vedi. Lo tengo su quest'asse perché non c'è altro da fare. E soffre, soffre perché l'osso buca. Ma poi, quando l'osso non boccherà più, Allora soffrirà perché non potrà che giacere sul dorso. Hai molto male?